Capitolo 121. Ergino. Alcuni anni prima degli eventi ora narrati, durante la festa di Posidone a Onchesto, un incidente di poco conto suscitò la collera dei tebani, e allora l'auriga Meneceo scagliò un sasso che ferì mortalmente il re Climeno, che discendeva da Minia. Climeno, agonizzante, fu riportato a Orcomeno e laggiù, mentre esalava l'ultimo respiro, ingiunse ai propri figli di vendicarlo. Il maggiore di costoro, Ergino, che ebbe come madre la principessa Beota Budea o Buzige, raccolse un esercito, marciò contro i tebani e rovinosamente li sconfisse. Secondo i termini della resa, confermati da solenni giuramenti, i tebani avrebbero dovuto pagare a Ergino un tributo annuale di 100 capi di bestiame per 20 anni di seguito in espiazione dell'assassinio di Climeno. Eracle, di ritorno dall'Elicona, si imbatté negli araldi Minii, che venivano a raccogliere il bestiame in terra tebana. Eracle chiese quale fosse la meta del loro viaggio, ed essi, con tono sprezzante, risposero che dovevano ricordare ai tebani l'atto di clemenza di Ergino, il quale si era limitato a esigere una mandria di 100 capi invece di mozzare le orecchie, il naso e le mani di ogni cittadino di Tebe. «Un simile tributo sta davvero tanto a cuore a Ergino», replicò Eracle furibondo. Poi mutilò gli araldi nel modo da essi descritto e li rimandò a Orcomeno le estremità sanguinanti legate con una corda attorno al collo. Quando Ergino pretese che gli si consegnasse l'autore di così oltraggioso misfatto, re Creonte sarebbe stato disposto a obbedire, perché i Minii avevano disarmato i tebani. Né egli poteva sperare nell'amichevole intervento dei suoi vicini in una situazione tanto grave, ma Eracle convinse i camerati più giovani a battersi per la libertà. Si recò allora in tutti i templi della città, raccolse le lance, gli scudi, gli elmi, le corazze, gli schinieri e le spade che erano stati offerti agli dei in ricordo di vittoriose battaglie, e Atena, che molto apprezzò quel gesto, li adattò alla corporatura di Eracle e dei suoi amici. Così Eracle poté equipaggiare ogni tebano in età di combattere, gli insegnò l'uso delle armi ed egli stesso assunse il comando dell'esercito. Un oracolo gli promise la vittoria se la persona che avesse i più nobili natali in Tebe si fosse tolta la vita. Tutti gli sguardi si appuntarono allora su Antipeno, un discendente degli Sparti, ma visto che egli indugiava a morire per il bene comune, le sue figlie Androclea e Alcide si sacrificarono invece sua e furono in seguito onorate come eroine nel tempio di Artemide. I Minii, frattanto, si preparavano a marciare su Tebe, ma Eracle tese loro un'imboscata in uno stretto valico, uccise Ergino e la maggior parte dei capitani. Questa vittoria, ottenuta con un pugno d'uomini, fu subito sfruttata da Eracle, che calò su Orcomeno, ne abbatté le porte, saccheggiò il palazzo reale e obbligò i Minii a pagare a Tebe un doppio tributo. Inoltre ostruì i due canali, costruiti dagli antichi Minii per irrigare i loro ricchi campi di grano con le acque del Cefiso. Scopo principale di questo attacco fu immobilizzare la cavalleria dei Minii, loro arma più temibile, e di condurre la guerra sulle colline, dove Eracle poteva battersi con eguale vantaggio. Ma poiché egli era sinceramente amico di tutto il genere umano, in seguito sgombrò di nuovo quei canali. Il tempio di Eracle, legatore di cavalli a Tebe, ricorda un episodio di quella campagna. Eracle si introdusse di notte nel campo nemico, e dopo aver rubato i cavalli che legò a degli alberi in una località molto lontana, passò i guerrieri addormentati a fil di spada. Sventuratamente Anfitrione, suo padre putativo, fu ucciso nella battaglia. Al suo ritorno a Tebe, Eracle dedicò un altare a Zeus protettore, un leone di pietra ad Artemide e due altri simulacri pure di pietra ad Atena armata. Dato che gli dei non avevano punito Eracle per il trattamento inflitto ai messaggeri di Ergino, i tebani si permisero di onorarlo con una statua detta di Eracle che mozza i nasi. Secondo un'altra versione, Ergino sopravvisse alla sconfitta dei Minii e fu uno degli argonauti che riportarono il vello d'oro dalla Colchide. Per molti anni egli si adoperò a ricostituire la perduta fortuna e alla fine si ritrovò di nuovo ricchissimo, ma vecchio e senza prole. un oracolo gli consigliò di mettere un nuovo coltellaccio sul logoro coltro dell'aratro, e allora Ergino sposò una giovane moglie che gli generò Trofoni e Agamede, i famosi architetti, e anche Azeo. L'oltraggio che Eracle fa subire agli araldi di Ergino è così ignobile, infatti la persona di un araldo veniva sempre ritenuta sacra per quanto insolente fosse il suo comportamento, che in tale occasione egli personificò senza dubbio i conquistatori dori incuranti di tutte le convenzioni civili. Secondo Strabone, certi canali naturali di roccia calcarea, nei quali scorreva l'acqua del Cefiso, erano a volte ostruiti e poi di nuovo riaperti dai terremoti. In certi casi l'intera pianura si trasformava nella grande palude copaica, nonostante i due enormi canali che erano stati tagliati dai mini dell'età del bronzo pelasgi, minoicizzati, per rendere ancora più efficienti i canali naturali. Sir James Frazier, che visitò la pianura circa 50 anni fa, scoprì che tre di quei canali erano stati artificialmente ostruiti con dei blocchi di pietra in tempi antichissimi, forse dai Tebani che nel 368 avanti Cristo distrussero Orcomeno, passarono tutti gli uomini a fil di spada e vendettero le donne come schiave. Recentemente una compagnia britannica ha prosciugato la palude e la pianura è di nuovo fertile e coltivata. Quando la città di Tebe era in pericolo, l'oracolo tebano chiedeva spesso il sacrificio di un farmacos di sangue reale, ma soltanto in una società ormai patriarcale, Androclea e Alcide si sarebbero gettate giù dalla rocca. I loro nomi, come quelli delle figlie di Eretteo, che si dice siano morte allo stesso modo, erano forse appellativi di Demetra e di Persefone, che pretendevano sacrifici maschili. Pare dunque che due sacerdotesse pagassero lo scotto invece del re sacro, in seguito chiamato col nuovo nome di Antipeno, che rifiutò di seguire l'esempio di Meneceo. In analoghe circostanze la Sfinge si gettò in un burrone sfracellandosi. Eracle, legatore di cavalli, si riferisce probabilmente alla cattura delle cavalle selvagge di Diomede e ad altre vicende di quell'impresa. Atena armata fu l'Atena antica che distribuiva le armi ai suoi figli eletti. Nei miti celtici e germanici il dono delle armi è una prerogativa matriarcale che si esplicava al momento del matrimonio sacro.